Chi è? Bello, il boia. Ho visto tuo fratello, la macchina perlomeno, la tua sorella qua. Ah? Ho visto la macchina di tuo fratello, la tua sorella qua, adesso. Ah, la Panda. Ehi, parcheggiata di fronte a quel tappone. Casa di mia nipote. Eh? Casa di mia nipote. Ho capito. Deve essere andata lì senz'altro. Adesso sta piovendo, sta. Ci ha portato il cane a fare la pipì. Ah, sceso là. Me stava girando le balle dal pranzo. Volevo uscire finché non ce l'ho portata. Adesso ti porto, ho detto, da Berlusconi e ti lascio lì. Niente quanto sta piovendo. Già lo so già che stava piovendo, già l'ho visto. Ma già smetterà fra un'oretta. Speriamo. Non sei uscito stamattina? Era al circolo. Ah, e allora se vedi. Io stamattina non sono passato, la verità. Adesso dopo devo andare ai cinesi lì vicino a in via Napoli a prendere i profumi. E poi lì mi ti faccio una scappata e me ne salgo a casa. Domani. No, oggi, non domani, stasera. Devo anche prendere un diodo se riesco a trovare la GBC. Si è alzato anche il vento, E se c'è vento allora già finisce subito l'acqua. Speriamo. Penso che già smetta. Fa un'oretta, un paio d'ore, va. Tempo di scaricare un po'. Hai visto che chi ha vinto? Cosa? Chi ha vinto? Chi ha vinto chi? Al partito. I 5 Stelle hanno vinto. Hanno dato una sussa, gli hanno dato a... Tutta la salaria ce l'ha in mano loro, tranne che la gallura. Già lo so, Antonio. Così imparano, hai capito? Allora hanno capito che adesso per il culo non pigliano più nessuno. Adesso al Senato a farsi 20.000 euro non ci vanno più. Adesso vanno a farsi il culo. Perché cosa pensi che l'abbia dato da chi? Per quello li hanno fatto, non per altro. Perché sono stufi gli italiani di essere presi per il culo. Tasse qua, tasse là, non stiamo altro che pagando tasse. A un certo punto va a far culo a tutti e ci avevamo buttati fuori. Io ho votato 5 Stelle, tanto lo sapevo che vincevano 5 Stelle. Anch'io me lo immaginavo, la verità, perché non è possibile, cioè stare, continuare così siamo andati alla... cioè siamo andati tutti in cose in Portogallo, in Spagna a vivere, alle Canarie, te lo dico io. Vabbè, l'importante è che facciano qualcosa di buono, hai capito? L'importante è che diano questo credito di cittadinanza, tanto è quello che volevano i sardi. E posto di lavoro, basta, non vogliono altro. Poi si vedrà. Speriamo. No, speriamo, Antonio. Speriamo bene. Sicilia e Sardegna ce l'hanno in mano loro, compresa anche tutto il resto. Poi già ci pensa Matteo Salvini a buttarci fuori tutti questi negri. A me dopo una volta. Sarebbe ora, cazzo, che questi cazzo vuoi comprare, cazzo, pure dal nostro territorio, cazzo. Non faccio, non ho capito che è dell'italiana la Sardegna, non è degli emigrati. Troppi soldi ci hanno fatto dagli stati, dalle comunità comunica europea, capito? Prendevano e aprivano cooperative, adesso le cooperative si attaccano all'altra, ma si attaccano. Adesso vanno a dare il culo anche loro. Per carità. Sai quanto costa la B27L? 40 euro costa. 40 euro? Su internet l'ho vista, 40 euro. Più le spese di spedizione ti viene quasi 50. Cosa cazzo vuoi qua? Quanto la vengo costa giù mai? Anzi, 10 euro in più, la verità si dica. Mercoledì 5 ottavi, 40 euro. La GBC 70-80 euro voleva, il doppio. E cosa? Il Pujaro ne voleva, ce l'aveva quella là, ne voleva 60 e qualcosa, 65 mi sembra. Sempre lì siamo. Cioè, meglio spendere 40-50, non di più, che 60-70, la verità si ricca. Oh, yeah. Sì. già rimane dove cazzo è quell'antenna, ma puttenuta. Ah beh, quello sì. Già non me ne sta chiedendo pane. Sì, manca a me l'antenna, cioè io, la mia. L'ho visto l'altro giorno perché stavo guardando su internet con Franco. E l'abbiamo vista, 40 euro, gli ho detto cazzo. E te ne volevo 80 con io quasi, 79 euro. E te la ordini, gli ho detto, metti quella con 3-4 metri di palo, te riesci, gli ho detto, te riesco picco. A me non è problema, non devi essere spaventato la notte, non sai che te ne scendo l'antenna in terra. Ho capito. Ui. Cazzo. Non hai capito che hai detto che i soldi non ce ne sono e dunque quel lavoro non lo fa. E chi? Nico. Vabbè, ma me lo immaginavo io. 220 euro sono 220 euro. Però almeno è tranquillo. Oggi ho visto su Facebook il circolo 200 metri quadri di Angelo, 800 euro ne vuole. E puoi fare anche sotto. Almeno il doppio, 1.600 devi incassarne. Il discorso è deve essere buttato via e cercare di incassare più soldi possibili, tutto lì. Certo, e dove cazzo incassi 1.600 euro al giorno? Non sarà, no? 800 al mese lo vanno all'anno, quindi sono... Vabbè. Non è neanche molto, 800, la verità, perché sono 200 metri quadri, quindi fate i conti. È lungo, puoi fare la metà a circolo, l'altra metà puoi fare tavolini e cucina, per dire. Perché puoi fargli la modifica. Non li spendo io 800 euro per fare il cazzo di quella cosa lì, Antonè. Vabbè, lui lì è pieno di circoli, il discorso è quello. Se fosse stato magari uno o due circoli, non di più, ma lì ce ne sono, mi sembra, 4 bar e 3 circoli, quindi fate i conti. È un po' eccessiva la cosa, ma se fosse stata una cosa differente, 800 euro si potevano anche gestire lì. La verità, bastava farsi la cliente, 800 tessere, ma lì è un casino, cazzo. Ma dove si trova questo circolo? Attaccato all'hotel che c'è Corso Vittorio Emanuele. Corso Vittorio Emanuele? Ehi, c'è un hotel lì, a 5 stelle, attaccato all'hotel proprio, c'è questo circolo, proprio attaccato. A Corso Trinità? Ah, oh, Corso Vittorio Emanuele, ti ho detto, scendendo. Non lo so dove. Te lo faccio vedere, rimane quasi di fronte alla chiesa dove va il sindaco quando fa i candelieri. Ah, piazza, sì, di fronte alla piazza Colonna Mariana. È un po' più giù rimane, di piazza Colonna Mariana. Attaccata a quel circolo c'è un tabacchino, c'è. Ho capito, dove te l'aveva accorto. Capigiuccio. Buf, vabbè, c'è quello lì. C'è il circolo lì, Capigiuccio. Già è un buon punto quello, non è che sia brutto. Meglio essere giù, già è quasi sopra. Hai capito, lì non ci viene nessuno a romperti le balle. Vabbè, non vieni io vengo a romperti le balle lo stesso. Vabbè, già è lungo come circolo, a voglia. C'è il bagno proprio lì vicino, poi un altro ne ha più giù, molto più giù. C'è la pompa sentina, c'è. Col bagno, quello per disabili, eccetera, eccetera. Quindi è un bagno, cioè un coso regolare, su 200 metri quadri di cose, lunghezza, e te lo faccio vedere in fotografia. Ho capito. Ci vediamo. Tone. A me l'importanza è che mi devo chiamare al travaglio, da voi ne vorremmo parlare. Quello tuo fratello quant'è? Non è 200 metri quadri lo stesso? No, è di più. Di più. Non ti ho sentito adesso. Ho detto che di più. Ah, di più, allora vabbè. Mi pare che paga 1.000 e fuscia, così è. 800. Quindi siamo in chi, mi sembra. Hai capito? Si è basso adesso. Ho detto che paga 800 euro. Vabbè, Allora già è uguale come costo, preciso. Ma devi considerare che lì prima il circolo, quello era una carrozzeria. E poi è stata trasformata in circolo. Quindi figurati tu. No, quello dove c'è coso, Angelo, è sopra. Poi sotto l'ho visto, quanto è grande sopra e grande sotto. Il problema è che sotto vuole finito. Capito? Sono altri 200 e passa metri quadri nel piano di sotto, ci so. E quello si può fare come cosa, come quando devi arrostire, va giù e arrostisci. Ci sono le scale, ci sono, scendi giù, l'ho visto, e poi puoi scendere direttamente dal portone o dal coso, ti puoi collegare da lì o dall'altro posto. Ma fa grande, è bello. Il problema è che vuole finito, ma quello è un altro discorso. Per aprire un locale, Antonio, deve essere iscritto alla Camera di Commercio. Già lo so, non dirà a me. E tutto perciò, vedi un po', anche io prendendolo, devo essere iscritto alla Camera di Commercio e non ce l'ho la iscrizione. Adesso vedremo cosa succede, secondo come basta aprire, come si chiama, fare il coso semplice e ti apri il circolo, non è più come prima, no? Prima devi fare un casino, avere la licenza, eccetera, eccetera, e ce n'è roba da fare. Devi avere tutte quante le cose, le autorizzazioni, poi devono venire i vigili, se il posto è idoneo, capito, devono fare tutti quanti i controlli. Lo so, non dirlo a me. Già lo so. Oh, yeah, per carità. Quando sei annoiato, Semi, già finito di piovere, ha dato una spussata e ha finito. Meglio così. Te lo immaginavo che pioveva per appena. Ha pisciato e buco. Esatto, se ha pisciato e basta. Meglio così. A meno... Rimaniamo con l'aria pulita. Allora, poi abbiamo più acqua nella fonte anche. Nella fonte di Bizinzu. Acqua di Bizinzu non si può manco bere. Ma dice che non è potabile l'acqua, quella che esce dal rubinetto adesso. E di tutto c'è alluminio. Boh, tu immaginati un po'. Come fai se c'è alluminio o roba del genere? Si fuori di testa, cazzo, se boh. Stiamo pagando a Banova per niente, a Sassari, guarda. Per niente. Sei mesi all'anno non si può manco bere quell'acqua, manco per pisciare e posare. E adesso, coso, a quanto ho capito, è intervenuto il sindaco di Sassari, e gliene stava dicendo cosa, poco delle cose di Abanoa, che sono esagerati, che quell'acqua non è più potabile, che è alla clientela, tutto quanto. È così, cioè, da quando c'è Abanoa non si può più bere l'acqua. Da quando ci sono loro, hanno rovinato tutto. Prima almeno c'era l'acqua a sapore di Varecchina, per dire. E la potevi bere tutti i mesi, tutti i giorni, non è mai morto nessuno. Da quando ci sono questi, con tutte queste cose strane, è diventato un troiaio, è diventato Sassari. C'è l'aria di Alghero che è nera. Nera solo, anche a Sassari è nero, se per questo. Ehi, è un casino. A far lumache vai. A fare lumache, caro Antonello, se tutto va bene siamo rovinati, andiamo a Parrucca, andiamo via le portone. E a casa di Ganao andiamo, ci mettiamo lì, mettiamo la tenda, tanto lui se ne sbatte i coglioni. Si ritira 20.000 euro al mese adesso. E cosa gliene frega di fare il medico? E a che ora vai là, Antonio? A che ora vai? Alle 5 e mezzo prendo il tram. E scendo dai cinesi via Napoli, prendo questi cosi qua. Poi passato fratello, bevo una cosa e poi me ne salgo a casa. Ah, va bene. Prenditi il tram se vuoi scendere. Ti bevi un caffè, te lo offro io e... Qual è il problema? Non lo so, no. Vediamo, non prometto niente, però non lo so se ce la faccio. Intanto stare a casa cosa fai? Ti gratti le balle, va? Non so, puoi stare dentro a casa buttato io. Ma lei che mi faccio una passeggiata a piedi, quello qua, beh, a piedi stasera non conviene, perché mi vostro la luce, ma quando c'è una giornata abbastanza che è nuvolosa, senza piovere, scendo a piedi. L'ho portato a fare la pipì poco fa, quando ho visto la macchina del tuo fratello, ha giocato qui salire le ruote. Ho detto, ma preso c'ha tu. E tutta la notte attaccato al culo mio. E non c'è di più. E però devo dormire a un fianco io, perché c'è lui che si mette tutto bello tondo. E quindi mette a un fianco a me. Ok, ho messo il pigiama, perché sono un po' le capace. E se ne sono buttate poi, sono cavoli amari. Già c'ho il pigiama, non ti preoccupare. Ogni tanto, vabbè, mette il musetto fuori, mette. E quindi dorme più tranquillo, solo che a volte sogna e non si tocca. Ma quella roba ti è arrivata quella? Cosa? Ricordamelo. Il PIN. Il PIN sì che mi è arrivato. Anzi, mi è arrivata la seconda lettera. Mi è arrivata per andare a tirarmi la carta. Ma non ci sei andato? Sì, la carta ce l'ho già ritirata. Capito? L'ho già ritirata alle poste. Anche il PIN mi è arrivato, l'ho anche provato, ho speso 8 euro. Ah, 8 euro? Per sicurezza ho detto, provi detto questa carta, se no ho detto vengo a lavare i piatti stanotte qua, gli ho detto. Quanto ti sei ritirato? 200? 289 ritiro. Ho speso solo 8 euro, figurati. No, ma quanto ti sei ritirato? 50 euro? No, non ho ritirato niente, ho speso con quella carta, ho provato a usarla al supermercato, la dello SPI. Quello di pedaliera, ho speso 8 euro, mi sono preso la macchinetta per i capelli. Ah, la nuova? La nuova, taglia bene, mi sono fatto i capelli corti, belli, di lusso. Ma se li fatti allo specchio? No, non c'è bisogno di avere specchio, basta che ti regoli dietro, non è un problema quello. Poi ti guardi e quando ci sia qualche cosa da tagliare, tagli. Se vuoi te li taglio anche davanti, i piedi del culo. E non saranno. Questo senza cosa, con la lama direttamente. Non saranno. E quella che è capace te le taglia anche le palline. E anche quelle te le taglia. Già lo so. Le stelle negrose. Allora, cosa devi fare? La sfumatura dietro devi fare. Devo tagliarmi quei quattro ciuffi bianchi che ci sono. Già te li taglio, non è un problema per quello. E? Quando avrò a 5 minuti di tempo. Quando Gerez, quando vuoi, non c'è problema. Te li taglio, se non te li taglio la testa. Omicidio colposo. Colposo. Imbarrato. Imbarrete. Imbarrato. Non c'era nessun altro in giro. Lo chef è sparito. Mi ha fatto vedere il porcetto l'altro giorno. Bello steso che ha cucinato. Tutto intero era. 8 kg di porcetto. Chi l'ha cucinato? È anziano. Ah? Lo chef d'Italia? Sì, l'ha cucinato in campagna, l'ha cucinato. Bello steso sopra il tavolo di casa sua. Viverello quel porcetto. Sembrava che fosse sdraiato per dormire. Ho capito. Deve essere stato anche buono. Sentito, gufo, non mi tassi. Non c'è ancora gufo, non è entrato. Barrando. Avanti, Giuseppe. Sì, questo è Luca, Luca, ci sei. È Luanto. Luca. Cosa stai imbuttendo? È Luanto. Mendicante, Gesù. E lui? E cosa? Roba buona? Cioccolato! Piano piano, attenzione a trovare il trapezzo. Il barrato! Avanti, lei. Se lo mangiare il cioccolato così ingrassa un pochettino, te lo vuole dimagrire perché è troppo grasso, boh. Sì, poi uno ogni tanto non fa male. No, già fa bene il cioccolato, mica fa male, anzi. Tra cioccolato e pomodori va bene, anche la frutta, la verdura. Di solito mangio finocchietti io e Lugane, anzi, il cane ne mangia più di me, perché se io ho due finocchi interi, gli taglio a pezzi e se li mangia all'asura. Vedi, così pure il mio cane li mangia. E impazzisce per i finocchi. Cazzo, sto succedendo che ogni volta che mangio io mi viene l'ansia, mi viene, perché non posso lasciare il piatto sopra il tavolo, se prende e sparisce il pezzo intero. Ma con la birra posso filarmi sopra il tavolo, perché già l'ha visto Giuseppe, me, cosa fa il cane, che ne approfitta e se la beve la bicchiere. Allora, bubu. Il cane cazzo, è come il padrone, adesso vede lui bevendo la birra, anche lui deve bere la birra, hai capito lui? Ma addirittura. Ehi, beve la birra il cane di Antonello. Andiamo a rivalzimare. Allora, mezzo bicchiere, cazzo, lo vede un po' poi barcollando. Poi fa niente, no, Giuseppe, te lo ricordi? Ti ricordi il giorno del compleanno, ci avete tu e Marco? Mi sono girato Marco 10 minuti, l'ho visto bello tranquillo bevendo la bicchiere. Ci ho detto, cazzo, sarà il cane. Oi. Vabbè, dai, ci sentiamo più tardi, dai, se coincide. Cosa stai andando? A letto stai andando? No. Sta andando a Cuti a Capicolino, e lo sai per che cosa. Ah, e dopo pranzo tu vai a Cusi, vai. Bubu, povero quel cesso ogni volta, dice, ma sempre mi disturba, ca. Maledizione. Vabbè, dai, a dopo, dai. Ciao, ciao. Ciao, a dopo, ciao, Giuseppe. Ebbene, ciao Giovanni. Sta fando? Cosa sta fando? Dormi da solo. Dormi. E dormi con gli pesci. E mica sono qua a piscà. E vabbè. Diciamolo. Ma chi so, quando uno anda a piscà, chi dorme non piglia pesci, io non sono qua a piscando. Ah, tu non apri. Hai già pescato, hai allora? Da zio prima, Gio Maria, va quando più. Non quando più. Certo. Se ti dirà voglia ci vai. Ah, sì, certo, senza ombra di dubbio. Se un nome graziano ancora se ruzzichendi un coso, Gio Maria, tu buchi tu la rimani. Allora, a Calafirino. E a chi è comincia da lui del bili del buco, capito? Piano piano. L'ultimo del giorno si mangia la veci, e un raso. Sì, no, la paura sarà. Chisso, no, ti la paluda, tutto si mangia, chisso. È un buco. Mia va, dice, beh, fammi tenere i miei mari, bisogna andare, anche se non lo travai. E a flipper in tesora. Sì, Gio Maria, poco fa, al telefono. Ah, vuol dire il magazzino, no? Sì, il magazzino era. Ehi, ma che cosa si fa, si va? A dire. Troppo umido c'è però lì. Ciao, Mari! Senta, bava! Amici! Oh! Ma il televisore mi sta guardando! Tutti stanotte dietro la televisione c'è un mio figlio! Ehi, Ghiaccio in fiamme! Attenzione! Io so, i sicuracci maradetti che punimo una macchina sotto, zaggaga in tutta la canta. Allucinato. A tanti stai uscendo. Lo che è preso maturo. E stanno sempre sporcando le macchine. Ho capito lui, sei uscito a tratti a primo, A tratti sto uscendo. Adesso no, ma prima sì. Ho detto, ci sono queste cornacchie, no? Che si mettono dove mettiamo la macchina e se la cagano tutta ogni volta. È qua la stessa cosa, i piccioni e i corvi marini, i gatti roghi, siccome mettono a mangiare i gatti, no, dietro qua è come apri la finestra, sembra che ti tentino, gatti. So se partenti subito livello 3 o 4 si butta allo sbaraglio, capito? E poi cagano. usando la frase, tutte le macchine, che è un macello, che... Ma sono maledette veramente. E bisogna lavarla subito, perché sennò te la brucia, ti brucia la vernice. Già lo so, Giomari, già lo so. Uia. E poi lì, catta, chi la ammassani. Ma poi si mettono in tante lì, capito, sopra un ramo. Sì, e poi sono magnani, e poi sono andata là e volevo e fare i bisogni. Tra cornacchi, piccioni, cazzo, e gabbiani, è un macello qua. Perché tutti mettono a mangiare i gatti, capito? Però allora attentano quando mettono a mangiare i gatti, dopo scendono loro, capito? Sì, sia le cornacchie oppure i gabbiani e i piccioni. Sì, ma secondo me le cornacchie sono più maledette. Ehi, cazzo, i gabbiani è peggio, quelli ne fanno buzzeffali di che, questi che, cazzo. Quando ognuna gatta, per carità, e se non è lavata subito si brucia la vernice, si brucia. Lo so, già lo so, cosa vuoi fare, Mario? Che cosa è la palagiosa che va a terra? Ti vedo magari qua quando fa la spia, e ti gracca, ecco, e faccio, no, lascia perdere lui. Meglio essere tranquilli là. Già lo so, non si può fare una cosa del genere, vabbè. Però ti rovino la macchina. Lo so. Purtroppo non li puoi toccare, capito? Non li puoi toccare. Assolutamente no. Comunque ho visto che dove c'è Graziano in piazza stanno facendo il marciapiede nuovo. Lì si vede che fa delle disagrazie, infatti, certo, sono tutti ai magici, per carità, grazie, vabbè, gialetti, lui lascia magari si abbassi. Speriamo che duri questa piazza, boh, ne dubito, ma. Purtroppo non si possono toccare, magari lì puoi spaventare, vabbè, però ammazzare non si possono, ragazzi. Guai, atta, la terapia a uno, uia, se è vera, la legge se è vera per gli animali, purtroppo così, uia. Lo so, non le puoi toccare, cavolo, ma non solo quello, sai che ti hanno detto anche le tele TV, perché io non so, ogni tanto, quella di mamma, si metteva a dindolare, adesso il canale si vede che salta. Appena il tempo è bello, salgo, la controllo. Ma no, due o tre volte hanno bucato l'illuminatore della parabola, si può immaginare. Certo, hanno cavato tutto su quel dretto, si può immaginare cosa fa se la cornacchia. Chissà, magari cazzo l'animale, però la cornacchia maledetta, si attacca all'illuminatore, cazzo, e ti rifascia, capito? Lo so, si attacca a tutti i figuracci, ma adesso devi darsi da nido, che minori, non è manna manna. E chi viene un ramo, sai cosa si intendi? Grazie, deve essere sempre by day, si rivedi. A chiedo, non li può finire. Non è grato se ti hai cucato con un buchito, saluti. Niente, già si è stata la campagna, ma da si pure ci lasciamo i capiti, e voi tanti scudi a un mosso. No, si sta qua da fianco, vicino. La posso, il gozo, la posso, non ti dici, ma la capatoio. Ma piatti in un freddo, pare male se piccaggio. Fatti illugato con la rita, se no non ti faccio. Lasciala, Graziano, numero uno. Bisogna farle a ponere i raggiofra. Allora, se non fuori bisognava inventarlo a Graziano, Giomari. Stesso che ogni tanto la una. E li combina, Comunque mi stavo sempre commentando, Giomari, per quello del baracchino. E uno ha scritto, ah, forse voleva scrivere 40 euro. Ma carità, cioè uno mi voleva dare 30 euro, ma 50 euro spedito. Ma a parte non lo do. Ma così per vedere la gente che ti critica. Addirittura uno ne ha uno uguale o sta prendendo 30 euro. Sì, mi deve avere anche le condizioni però. Ma l'ho visto in foto. No, quello là, no, ce n'è un tipo l'ha messo in foto, oltre al commento, come si dice? E sembra nuovo, la foto, ne vuole 50, mi sa. Io ho dato 9.900, nuovo, ecco dentro la scatola, 130 euro, guarda. Al volo se l'hanno preso, guarda. Allora, un bel apparecchietto, piccolino, però c'aveva tutto, tutto, dalla alla Z. Al volo se l'hanno preso, tanto non mi serviva, capito? Era sempre fermo dentro la scatola, allora l'ho dato. Ma è sembrato vero quello lì appena che l'ha visto. Che baracchino è il 9000? E che baracchino è? È 9009. Era 27, da 25 a 30. Ah, molto l'avevi venduto. E tu sei 130 euro, al volo se l'hanno preso. Ah beh, ti credo, che da 25 a 30. Subito, subito. Sì, infatti avevo messo Luca in sezione. Subito l'hanno preso, subito. E poi era nuovo, capito? È stato usato 2 o 3 ore, non di più, e dopo messo sulla dentro la scatola, non sto dicendo, un peccato, poi un bel apparecchietto, Poi mi se lo vuoi vedere, basta guardare, cerchi, fai 9.900 e te lo dà subito. Ma il 9.900 di quale marca è? Della Intec, della Midland, di quale marca è? L'Intec mi sembra che sia. Mi sembra che sia l'Intec che l'ho preso dal Regno Unito io. 130 euro alla fine regalato. C'era nuovo. Ma da poco l'hai venduto, da molto? L'anno scorso l'abbiamo venduto. All'inizio dell'anno scorso. Ah, ma fuori l'hai spedito? Come l'adesso? Subito l'hanno visto e l'hanno chiesto subito il spediglielo. E già l'abbiamo spedito subito. Al volo proprio. Ah, è andata a finire il continente, così è. Eia, uno di Bari mi sembra che era. Vabbè. Sono tre facce niente, Gio Mari, tanto cosa. Ma sai che molte volte, quando ne hai tante, cosa ne fai? Poi, ripeto, uno è collezionista, va bene. Se ne tiene così, qui se le guarda, ogni tanto le mette, le accende, le prova. Ma se uno non le usa, le tiene così, si rovinano. Ma infatti, non le facevo niente, io mi piaceva, perché era piccolino, capito? Anche per la macchina andava bene, perché era piccolino e c'aveva anche le bande. E mi sembra che c'aveva, adesso non mi ricordo, se era 60 watt c'aveva. Mi sembra, non mi ricordo bene. Mi sembra che era 60 watt. Cavolo, 60 watt, addirittura. Adesso lo guarda bene, 9.900. Mi sembra che era così, non mi ricordo bene, ad essere sincero, Ma mi sembra che era 60-65. 9.900, sì. Adesso lo guarda, sul telefono. Guarda, me l'ho visto poco fa. L'ho visto. Adesso non mi ricordo dove era. Sui bimbi sembra che c'era. Però il Regno Unito mi sembra che c'è. Oh, non so, che non mi ricordo se era dell'Isla o se era un'altra marca. Non mi ricordo se era Intec che no. Forse era 2000, non mi ricordo veramente la marca, però il nome era 9009. Sì, ho visto, Superstar 9009. Superstar, bravo, sì. Visto l'hai? Allora, CRT Superstar SS 9009 V3.0 vice trasmittente CBHF 60 watt di DTE DTMF 10 12 10 11 12 metri. Già è quello, sì, già è 60 watt in quanto mi ricordavo, sì. Allora no, non mi sono dimenticato, no, ma era bello, sembra così, ma era veramente bello. Era piccolino, piccolino, però sincero, e ci va benissimo. Mi sembra che, mi sembra, se non sbaglio, c'era anche Marco Condor. Sì, mi sembra, Nuovo costa 212 più 30 di spedizione. Io l'ho pagato di più. Io l'avevo pagato, cazzo. C'avevo un anno e più in casa ma senza usarlo, capito? E di più l'avevo pagato io. Sì, sì, sì, sì. Già vedo, vedo. Taggo il baracchino, ci sono fatto l'interruzione. Sì, lo vedo, bellino, bellino. Cazzo, da 25 a 30 MHz. Ehi, infatti, poi AM, FM, cazzo. SSB, CW, tutto aveva, capito? PA. Aveva tutto, ti sto dicendo, è bellino, poi è piccolino ma è bellino, capito? Sì, vabbè, per la sua grandezza ha molte funzioni, dai. E infatti, per essere un baracchino così piccolino avere tutta questa roba, certo. Ehi, no, era un bel apparato, va. Però, ripeto, non avevo posto, poi non ho, cosa era? Ui, cazzo, mi lascio la gascetta. E cosa fai? Oh, Zio Mari, con il tempo poi, se tanti anni a voi là, che qualche radio te l'hai usata e comprata. Sì, ci va bene tornare a GPG, i baracchini. Avevo 5 Galaxy, te lo so dicendo, avevo 5 Galaxy. Stavo facendo le collezioni di apparecchi. Ma me ne sono lasciato due, ragazzi, uno, due li ho venduti, dai. Ah, pure, il supermercato, non c'avevo più posto. Allora ho pensato di vendere tre, li ho fatti fuori e due me li sono tenuti io, ce li ho qua davanti. Però questi sono nuovi nuovi, nuovi nuovi nuovi. Io lo so che uno è che gli ha messo la scheda a Colt. Quello è bello, io l'avevo sentito anche. Bello, bello, esce anche bene. Sì, sì, sì. Adesso un bel diciamo che sono barrasoni perché ci vuole spazio per quelle radio lì, non è come un baracchino, meno male riesce a infilarselo dappertutto. Lo volevano, lo volevano ma non l'ho dato, ecco. Non li uso, mi guardi, io non li uso, sono sempre fermi, io li accendo ogni tanto, li lascio un'oretta così accesi, senza antenna. E dopo li spengo e li copro e sono sempre coperti lì. Si può immaginare, non... E infatti sono barrasoni, ecco, sono barrasoni però sono degli apparecchi. Anche in ricezione, se entrano in ricezione sono... Hanno una ricezione bestiale, veramente bella che un bombon. Sì, beh certo, sono radio che alla fine hanno... sono costruite bene, dai, tratte bene, non sono come baracchini, sono fatti così. E vabbè, chi ha la passione per queste cose, mio marito? Anch'io qualche radio già mi è passata tra le mani, Prima ne vedevo uno che mi piaceva e lo prendevo, magari mi lasciavo un poco e dopo lo lavo. Ne vedevo un altro, sempre roba nuova, io ho preso sempre la maggior parte roba nuova, sempre roba nuova. E magari dopo lo prendevo, dopo un po' magari lo davo, capito? O sono stato sempre così, da sempre però, da sempre sono stato così. Mi ritenevo per un po', dopo rivendevo, magari trovavo un altro che mi piaceva di più e lo prendevo, capito? Così facevo un telefonino, dai, però adesso mi fermo e basta. Telefono che volevo, lo so preso, che ho fatto un affare, e boh, basta, non mi vado via da Nanzi, boh, no, volevo prendere un altro, ma non mi, no, mi tengo questo qua che ho, poi chissà, più avanti si vedrà. Io mi parlo del telefonino, E ho staccato il telefonino. Poi c'ha ancora il Motorola, cazzo, quello antenna a lunga, ancora. E funziona, due ce ne sono, funziona ancora benissimo. C'ho la 3. E cos'altro è? Poi ne avevo, ultimamente me ne hanno regalato uno 2 anni fa. Non riuscivo a combinare niente. Boh, no, non ci riusciva, e infatti. L'anno scorso me l'avevo regalato. E aveva tutto, era completo quello lì. Però non so, mi inciafugliavo e me ne fregava i soldi così, allora ho lasciato la parte ed è dentro la scatola lì. Sì, no, questo che ho io, vabbè, chi l'ha comprato l'ha pagato 930 euro. Ehi, io non farei una spesa del genere per il telefonino, guarda. Perlomeno per me no, è una le faccio. A me piace un telefonino semplice, normale, basta. Magari oggi la gioventù ce l'ho solo sofisticati questi telefonini, non sono contenti, capito? Però a me non mi vale, non capito? Perché non agi di mattarmi lungo un telefonino, capito? Io lo uso solo caso di necessità e basta, ecco, tutto lì. Ecco, ce l'avete fissato. Più di uno, E telefoni anche da 1200 euro. Questi touchscreen S8, c'è l'S9 che costa 1200 quasi. Mi sembra che c'ho l'S7, mi sembra che c'ho io. Mi sembra che questo qua è così. E io c'ho l'S6 invece. No, non credo che l'S7. Cosa l'S7? Anche quello me l'hanno regalato, non è che l'ho comprato, me l'hanno regalato. Certo. Ma infatti quello che mi hanno regalato l'anno scorso non lo... troppo complicato e non mandava, no. Così che invece l'S7, mi sembra che è l'S7 questo che c'ho adesso. Va benissimo, è un bamboccolo, quello riesco a maneggiarlo come voglio io, capito? Non so fare tutto, però la maggior parte riesco, capito? Sì, già ti... Ti metti già... Cosa, Mari? Ho capito. No. C'ha il telefono touch, c'ha pure coso, il WhatsApp, no? C'è tutto. C'ho internet, c'ho tutto lui. Tutto. Mi sembra che sei 7, adesso te lo guardo, ti puoi mangiare io. Non è che mi guardo tutto al 100%, adesso te lo guardo qual è. No, l'S7 costa un bel Giomari. Tanto questo qua, un S6, l'hanno pagato 930 euro. Aspetta, 7,580. Cosa? 7,580. No, non ho capito, S5,80. Il Galaxy 13 Plus è o lui? Cosa, Giovanni? Galaxy 13 Plus. GT3 Plus. Sì. Sarà il Galaxy, come te, il Samsung Galaxy Grande... No. Samsung Galaxy Plus. Vabbè, quello è grande come telefono. È grande, sì. È lungo del manno. No, era molto quello. Ce l'ho, quanti ce l'avevo? Un anno, due anni, un anno. Un anno mi sembra che ce l'ho. Ho capito, il Galaxy, quello, insomma, il Code Plus. Anche il mio è il Plus. Plus. Però il mio è quello che c'ha il vetro curvo ai bordi, non è tutto piatto. È curvo, tutte e quattro lati sono curvi. Il vetro curvo, dai. Da una parte e dall'altra. Non rimane, capito, non rimane piatto come adesso, come gli altri. Ah no, c'ha tutti e quattro lati curvi, è lungo. Allora quel telefono costa, se è quello come il mio costa. Siccome io non me ne intendo, capito lui, non è che... la scatola, dovrei guardare la scatola. Tanto sulla scatola c'è scritto qual è, no? Sì, certo che c'è scritto. Aspetta che lo guardo la scatola. Ehi, allora, Smart Prime 7. Ah, il Prime, Smart Prime, Samsung Galaxy Prime Plus. Esatto, esatto. No, non è come il mio, mezzo curvo, no Giovanni. Tanto quello lì costa, non è perché ce l'ho io, no, non ci mancherebbe, te lo puoi anche permettere, forse più di me. Però non è quello. No, ma c'hai i vetri curvi questo qua, tutti a quattro lati, comunque così, vai. E marci, prima sette, sì. Beh, va bene, cazzo, è un bombon. Sì, e beh, certo. Certo, sono, vanno bene, abbiamo iniziato. Poi mano a mano, ho avuto le 4, poi dalle 4 sono passato all'altro, non mi ricordo l'altro modello, e l'ha già avuto mio marito, l'ha già avuto un bel telefono io. Ma è inutile, vabbè, ripeto, a me non che mi interessa il telefono, cazzo, è così, cazzo, 400-500 euro, e adesso, cosa mi porto? A me basta che mi faccia i doveri miei, basta, le devo telefonare, basta, capito? Questo a me me l'hanno regalato, altri, ripeto, non è un altro nuovo, nemmeno usato, capito? Puoi mangiare, quello è più grande pure di questo. Sì, ma ripeto, anche io ne ho cambiato tanti. Allora, ultimamente c'avevo l'S4, c'ho ancora l'S3 e l'S4 a casa. Poi io c'avevo l'S5, quello l'ho venduto, infatti mi hanno dato una parte, gli altri me la danno a fine mese. E adesso c'ho devo rispedire in garanzia perché mi hanno cambiato l'LCD, funziona, però non funziona bene. Secondo dove va a toccare se ne parte da solo, impicchiata. Molte volte vai a chiamare, clicchi, si illumina, cioè la cornetta, però lo devi cliccare un'altra volta, e allora così chiama. Comunque niente, glielo porto perché è in garanzia, così me lo riparano, lo controllano, boh. All'altro infatti ho dovuto andare a cambiarmi la scheda perché sull'altro, sull'ultimo che l'ho regalato l'anno scorso, c'ha la scheda più piccola, invece questo qua c'ha la scheda più grande. No, quello mio c'ha la più piccola che c'è in commercio, c'è la nano, dai, diciamo. E quello me l'ha regalato l'anno scorso, infatti c'ha la scheda piccola, invece questa invece è la scheda più grande, capito? Chiamano bene Gio Mari, a Puglia, vanno benissimo, non bene. Poi, per l'uso che ne fai, dai, già ti sta, va bene. A me mi serve memoria, perché ci metto, quando faccio delle foto, magari, no, che mi servono, le lascio lì. Mi serve un po' di memoria. Infatti il mio è da 64 giga. E a me cosa ne faccio tra le fare genere io? A me l'importanza è che... me adesso, questa già c'ha tutto, c'ha la... c'ho tutto, ecco, questo è mio, mandare a me, per quello che lo uso io, anzi la maggior parte sono per telefonare, e qualche è cosa che mando qui sullo scalpo, che basta, capito? No, perché è salto. Ehi, adesso sto puntando sull'S8, bello, bello quello, proprio bello, solo che sono molto delicati, se ti va in terra, si butti due, sì, più che fregato. Perché si spacca, praticamente è tutto un vetro, sia davanti che dietro. Vabbè, a chi piace, io non ne faccio niente per cui, c'ho la 3, se lo sai dire, c'ho la 3, che dopo l'ho cambiata umide, dopo 3 mesi, infatti, l'ho dovuto cambiare la scheda umide. E nuovo ancora anche quello, funziona perfettamente. Però dai, mi hanno regalato questo, allora quello là l'ho messo da parte, però funziona, no? Quelli che ho, ne ho 4, mi sembra, funzionano sempre. Sì, anch'io ho quello che hai detto tu, quello con l'antennino che si solleva, con lo sportellino. Era di mio fratello, il D470, Motorola D470. Non lo ricordo ancora. E qualche telefono vecchio ce l'ho pure io, dai. Poi qualcuno l'ho dato, qualcuno l'ho regalato, qualcuno l'ho venduto, così. Me lo hanno chiesto, l'ho dato poco, così, 10 euro, 15 euro, che li servivano per lavoro, capito? Ma nuovi, messi bene, tenuti proprio bene. Vabbè, dai Gio Mario, io mi devo assentare 10 minuti, che mi devo preparare, che devo uscire, devo andare a fare delle commissioni. Vabbè, va, metto a posto, la giocava altro di cazzo, a Baizetti, a poco a posto tutto, va boh, sentiamo, dai. Casomai ci sentiamo dopo, Giovanni, se ci sei. Comunque ancora non è entrato nessuno, boh. Ehi, acceso, senta, sono già tutto acceso qua. Buffo, grugoso, grugagnoni. Avanti. Ebbene, non rispondi? Ma perché schiacci se poi non hai voglia di parlare? Grazie a Reddu, è mezzo porcetto, gotto è. Attento, Graziano. Ah, io ho fatto là il fugu, mezzo porcetto. Non ti ho sentito, no. Se hai parlato non ti ho sentito. Poi da piombo prima. Attento Graziano, se sei tu mettiti a piombo, che non ti sento. Avanti, chi era quello? Ah, qui vicino, per quello, vabbè. Anch'io sono qua in questa zona, sì. Quanto? 10.000 vatti, già lo so che è così. Va bene, dai. Già ti sento, ma devi essere molto vicino a me, eh? Beh, certo, se no non ti avrei potuto sentire. Se sei stato molto lontano non ti avrei potuto sentire. Ma non è freddo? Se sta piovendo qua, cosa no? Sta piovendo. Sei in macchina, sì. Ho capito, sei in macchina, con il riscaldamento acceso, no? Così è bello, lo vedi? Non lo so qui. Se no cosa ci fai il giro? Sta anche piovendo qua. No, io sono a casa, non sono in giro. Sono a casa, al caldo, tranquillamente, con la televisione accesa. E stavo guardando, ascoltando un po' di quei magnacci della politica. E chi se ne frega? Ha vinto 5 Stelle, chi se ne frega? Ha vinto anche l'alleanza di Berlusconi. Ma se venga di tutti i canti, chi se ne frega? Non mi interessa niente a me, no, non mi interessa niente. Non ci sono andato io a votare. Figurati che uscivo io proprio ieri, stava piovendo tutta la giornata e andavo a votare a loro. Raga, pigli. Tanto non merita nessuno il voto. Vabbè, lo so. Tu, vabbè, sei giovane allora. Quanti anni hai? Non ho capito. Parla un pochino più forte, perché stai arrivando basso basso, che al momento non ti sento. 28, così hai detto, 28? Allora già sei giovane, fregatene, allora potevi anche andare a votare, cosa te ne frega? E come mai non ci sei andato? Visto, allora ho ragione io, la stessa cosa hai fatto tu, stava piovendo e non mi sei andato a votare, ero grido, anche se da qui è vicino, da dove abito io già è vicino, il seggio dove dovevo votare, però... Perché me lo faceva fare a me uscire piovente? Tutto il giorno, non ho smesso un secondo ieri. Sì, è uguale. Beh, certo. Va bene. Vabbè, diciamo, nella via che mi hai detto, io sono un paio di vie più su. Un paio di vie più su sono, dai. Vicinissimi siamo. Ma dove sei? Davanti al bar, sì? Sì, in quella via, ho capito. Ma c'è il bar lì, o l'altro bar di giù, sì. Ah, questa vicino alla chiesa, ho capito, sì, ho capito. No, già lo conosco quel bar, anche se io non sono un abitudinario dei bar, non me ne frega più di tanto, però già lo conosco. Qualche volta ci sono entrato con qualche amico a prendere un cappuccino o un caffè, cose del genere, dai. Buonasera, Marino. No. Chi era l'altro? Avanti. Buonasera Marino, ciao Giulio, ciao anche un amico, ma io l'amico non l'ascolto. Comunque Marino, avanti Giulio. Ciao Marino, no, è uno vicinissimo qui a me, vicino a casa mia, per quello che lo sento. Ha un portatilino di quello Brundi o come si chiama, comprato nei supermercati. Ah, è per quello? è per quello che non l'ascolto, ma oggi non c'è nessuno. Graziano sicuramente sta mangiando la testa di maiale. Graziano! Graziano mi ha mandato una fotografia con un porcetto sul tavolo, deve essere che sta arrostendo. Capita, un pochettino prima va via, se puoi immaginare. Mi è arrivato anche a me il messaggio ieri mattina, aveva un limone in testa, l'ha messo dopo, ma un filmato da mandato. Ok, la dico, sicuramente in quel bar che c'è in via Era, a fianco al bar di via Era, dove eravamo noi l'altro giorno. Bene, avanti Giulio. Ok, sì, sì. Aspetta un attimino, come ti chiami? Non avevo capito il nome poc'anzi. Roberto? Cos'hai detto? Roberto? Arrivi talmente basso che non riesco a capire. Roberto, sì, ho capito. Ma stai chiudendo? Ah, non lo senti l'amico? Sì che lo senti, cosa lo... Ascolta bene che già lo senti, cosa stai dicendo? Lui è che non senti a te, ma tu a lui già lo senti. Sicuro? Appunto, tu già l'hai sentito, e allora, visto, cosa stai dicendo? Già lo so che l'hai sentito. Ma lui a te non ti sente, Non ti sente assolutamente, lui è lontano, è un paio di chilometri lontano da dove sei tu. Sicuro? Avanti, ciao Bacchi. Buonasera Giulio, ben ascoltato, non so con chi sei, perché non ascolto solo a te e basta, avanti. Ok Bacchi, sì no, c'è un ragazzo qua, un giovanotto, là, non un ragazzo, un giovanotto, che sta usando il Blondi, 10.000 watt, si può immaginare. È sotto casa quasi sotto casa mia, per cui non lo sento solo io per quel motivo, capito Bacchi? Tu non lo puoi sentire, non è possibile. Ok. Bene, non so se lui mi ascolta, io lo saluto con la buonasera, ma io a lui non l'ascolto affatto, niente, neanche la luce si accende, neanche le spie, nulla, 0-0. Avanti Giulio. Ok, adesso glielo chiedo. Roberto, lo senti a Bacchisio? Ah, già lo senti, basso, ma già lo senti. Sì, è un altro. No, l'altro è Marino. Questo, il secondo che ha parlato, è Bacchisio. Sono due persone differenti, due amici. Capito? Va bene, d'accordo, stai chiudendo. Ciao, ci sentiamo. Quando sei in zona, fatti sentire. Può darsi che sei un apparecchietto acceso, che magari già ti sento. Gli amici non ti sentono di sicuro, perché a meno che non vai vicino a casa di loro, ma con quell'apparecchietto non è possibile che ti possano sentire. Poi con quell'antennino da dentro la macchina, tra l'altro, ti puoi immaginare, non è possibile. Vabbè, ciao Robè, alle prossime, dai, ci sentiamo, ciao. Avanti Mari. Ok Roger, ciao Robè, ben sentito, non so, posso dire che non ti sento, alle prossime, dai. Bacchisio, buonasera, non ti ascolto, solo QRM, arriva il segnale, ma solo QRM, modulazione negativa, avanti Bacchi. Ok Marino, nulla, non mi ascolti per niente, nulla, il segnale, arriva almeno il segnale. Ho capito un tubo Bacchi, negativo, non ti ascolto, no. Non ti ascolto, arriva solo il segnale col QRM e basta. Avanti Giulio, non so se hai capito tu, dai. Io già ho capito, sì, no, infatti a lui ha chiesto... Se il segnale c'è. Che sia un po' basso del radio, va chi? Però, se sto bene. Però... No, diversa. La portante ti hanno messo Giulio. Vabbè, si vede che sei Luke. Lascia un po'. E chi se ne prende Bacchi? Aspetta che mi faccio sentire da Marino, là. E adesso mi faccio sentire da Marino. Ok. Sentite, oh, Maria ha detto che adesso si fa sentire anche da te, si fa sentire. Forse cambierà apparecchietto. Ok Roger, vabbè. No, ma che segnale arriva, Io se sono dentro casa, non sto utilizzando quella che ha fatto lui. Sono dentro casa, la solita antenna. Il segnale arriva forte, solo là arriva il QRM. Mentre il modo c'è QRM, lui lo sento lontano ma non riesco a capirlo, capito? Avanti giù. Aspetta adesso mi ascolti. Adesso sì, adesso sei sotto a fianco al mio cancello, dai. Oh, buonasera Marì. No, stavo usando la sorella della tua, però è messa in terra, siccome ho fatto la staffa, stasera volevo mettere sul traliccio, Ma sempre piovendo, cosa fai? In mezzo alla pioggia non si può fare nulla. Esatto. E comunque il segnale, vabbè, sto utilizzando adesso, sono dentro casa, non sto utilizzando la tua, Qui il segnale arriva, la tua zona non arriva per niente proprio. Il segnale arriva, ma sei a livello QRL, tutto qua. Ok, avanti, puoi far girare. Ok, prova a mettere la mia a vedere un po', se ti riesco a ascoltarti. Con questa antenna mi dovresti ascoltare. Avanti e giù, riprendi tu, intanto Marino fa il trasloco. Il trasloco fa, cosa siamo? E vabbè, no, io già ti sento sempre un bacchino. Comunque questa è più pulita la radio, con questa è più pulita. In effetti va meglio, senz'altro. Lasciamogli fare il trasloco allora a Marino, così vediamo un po' che cosa sta combinando. Avanti, Bacchi. Ok, no, questa qui è quella che aveva fatto mio cugino, capito? Che aveva portato mio cugino da Cuneo. E funziona abbastanza bene. Diciamo che stasera c'è un po' di stazionale, c'è 107. Va bene, d'accordo, sarà perché sta piovendo. È probabile che per quei motivi lì, comunque un non così è circa già grazie, c'è qualcuno che mette la portante. Marino, hai fatto trasloco? Sì, ti ascolto sempre fondo scala, arrivi Marino, fondo scala arrivi tu qua, e questa è l'antenna grande che sto usando. Va bene, già ti ascolto, dai, riprendi Giulio, ti ascolta migliore di me. No, anche a te già ti ascolto bene lo stesso, non ci sono problemi. Vabbè, Marino arriva più forte, ma siamo in una posizione più idonea fra me e lui, per cui è un problema. Sentire ci sentiamo, per cui va bene così, poi un po' debole come modulazione, interessante capirci, ma chi? L'importante è capire, infatti. No, qual è che l'antenna l'ho levato io, Marino? Sto usando quella lì, ma dai, la sto usando dentro casa, non è che l'ho messa fuori, no? Sentito, Marino, forse si è allontanato adesso Marino, perché non mi ha risposto. Giulio, scusa, ascolti. Sì, io cado una vitrighita di bisci invece di stare giocando l'importante. Ma chi è? Sto ascoltando bene, mi ascolti bene? Adesso è forte e chiaro, come Giulio, forte. Solo che adesso sto utilizzando quella che mi ha dato Giulio, la direttiva. Sembri che sei sotto casa. Giulio, mi ascolta bene, giusto? Va benissimo, sto bene, benissimo ti sento io. No, non ho problemi, io non ne ho nell'ascoltarti, Marì. Sicuramente, come io sento a te, tu senti a me, senza nessun problema. Noi siamo all'esterno, non ci sono ostacoli, vediamo solo cielo e basta. Esatto, cielo e basta. E con quale stai utilizzando, Bacchisio, adesso? Quella che mi ha dato mio cugino. Ma anche poc'anzi, no? La poc'anzi era la sorella della tua. Allora, aspetta adesso, mi sposto nuovamente con questa qui. Adesso mi metto con la tua sorella, con tua sorella. Quella che ho io o l'altra, quella che mi ha dato tu, aspetta, continuate. Prova a vedere un po' se ti ascolto con questa antenna. E se no cambia la carta carbone di giù. Vedi di aprire la porta, casomai. Così passi meglio, con meno difficoltà. È bello, ma chi? Allora, più pulito. E sono il marito. Sto andando male. La sera si doveva portare la macchinetta da pulire la frequenza. Sarà così. Ma quell'imbecille sta cercando di mettere la portante, ma non ce la fa a superarti. Bacchi, non ce la fa a superarti. Anche a te supera, però si gioca. Infatti lascialo giocare. Sì, io che con la vecchita di Asuleta. Maria, avanti. Arrivi, tu arrivi però. Se no che c'è quello che sta giocando con la bicicletta, ogni tanto viene. Avanti giù. Ok, ma chi? Ma dimmi la verità, Poco fa forse stava soffiando o qualcosa del genere quando stava parlando Marino, ma non ce la fa a superarsi. Forse non l'ha capito che tra noi non ci sono ostacoli, forse non l'ha compresa che sei imbecille. Se avesse fischiato in mezzo alle gambe della sorella o della madre avrebbe fatto più bella figura quello stronzo. Lascialo giocare, vuol dire il divertimento suo e mettere la portante. Però ho capito che siamo vicini. Ma non è lui, è tonto, non è al tempo. È in grado di dire per palato per che problema. Ho sentito qualcuno che sta soffiando, cosa sta gonfiando? No, sta soffiando fra le gambe della sorella, o marito. Soffia. Dai che sta accendendo il fuoco per cucinare il porcetto. E il porcetto mi pare da chi? Sta già mangiato, Graziano. Ah? Ha messo un bel limone in testa, Oia, su saletta da racconto, vero giù? Non credo, sulla giabata a mangiarsi lo zuttulo. Era un porcetto grande anche, tra l'altro, mi ha mandato il messaggio tramite WhatsApp, mi ha mandato. Caspita, un filmino si ha fatto, comprisai. Delicato, Emmi. Riprendi Bacchì. E a massimo andiamo un porcetto, poi si è partito un filmino e apri la bocca, a ver se entra che cosa. Che mocca da voi, passa. Graziano, vieni fuori. C'è la luna a fiori. E forse se cos'è, forse un po' influenzato ieri sera, l'anno scorso sentivo un po' rauco, e ero in festa, ero, e stava cantando, era senza voce, avanti giù. E allora, stava cantando, stava, no? Se vedi che la dazzita l'ha fatto male, se stava cantando, se è vero che è quello, oh, yeah. Grazie, fatti serio. E beh, da chi? Quale sto usando? Quale tuo cugino? Quella di mio cugino sto usando. Quella di mio cugino. E qua, con questa antenna sto usando io dentro casa, e il Giulio. Io, la modulazione limpida, pulita, senza nulla. Limpida. Beh, e dove l'hai attaccata? Ma esternamente o internamente ce l'hai? Faccio all'esterna, e la sua... quella antenna di Luca, quella che stava sempre sul tetto, io sto utilizzando sempre quella via, basta. Fuori, capio. Invece quello dato io è sempre nelle cose, nel vaso di fiori. Esatto, quella lì io, guarda, tacco la bacca, a tutti ascolto, per fortissimi. A Giulio, vabbè, l'ascolto come sia in casa mia, Giulio. Ma anche a Gio Maria, a Tore, Graziano. Sì, solo tu che non ti ascoltavo, capito? Sì. Arriva il segnale, ma la modulazione è lontana, ti copre il QRM, dai. Ho capito. E adesso vediamo un po', domani la metto sul traliccio, perché adesso è in terra, è messa sul vaso dei fiori, è messa. Ascolta, che fiore hai messi però? Porto in alto, sempre più in alto, con grappa a bocchino. Sì, ma che fiore hai messo, Bacchì? Bacchì, quale vaso hai messo, quale fiore è? Ah, il vaso dei fiori. E la spina santa. Forse sia quella rimi che non mi fa che non passa il segnale. Se c'è la spina santa forse il segnale me lo blocca, per quello non sono io, non ti voglio ascoltare. Forse la spina santa, vero giù. E allora, sarà per quello, ma chi? Caspita. Sono la spina santa, e allora. Cambia pianta, ma chi cambia? Quella lì punge troppo, punge, perciò no. Mette sui crisantemi, va bene, crisantemi. Okay. La punge, quando parla gli punge la lingua. Tulipani non ne hai? No, non ne ho tulipani. Pani, nulla. E farassi il segnale aumenti in quella pianta, capito? Si blocca il segnale, si blocca. Metto, si punge la lingua quando sta parlando e non esce la voce, capito? E quello era il problema. Deve cambiare fiore. Poi cambio fiore a vedere un po', adesso non c'è scopo, poi cambio fiore. Domani non cambia, la cambi, domani. Tu adesso sei giù, sei o su. Domani accorcio anche il capo, tutto quel capo che ci ha rotolato in terra ne ho taglio, lo faccio giusto. Lo lascio a misura. Adesso dove sei, su sei o sei giù? Su solo. E perché quella antenna questa qui non te la passi giù? Non ce la fa a passartela? Per portare questa giù ci vogliono 30 metri di cavo, perché deve tornare indietro tutto il cavo per andare giù, capito? Dunque, questo erano 20 metri, altri 20 metri ce ne vogliono. Però poi stai trasmettendo con 40 metri di cavo. Ti prendo un po' di segnale, io ho capito, sì. Oh, capretto, avanti, sì. Ok, ebbene, senti, su questa frequenza, tutto quel cavo, insomma, diciamo che te ne mangia quasi tutto il segnale. Sarà una fortuna se si riesce a sentire e ascoltare, perché con quel cavo, questa frequenza e con questa potenza è proprio una cosa un pochino difficilissimo da parlare, da modulare o se c'è dispersione, in 40 metri c'è dispersione, non riesce a arrivare a nessuna parte, capito? Lo credo, caspita. Se ne prende più della metà della potenza dei dB che potresti avere, non so, ma d'altronde cosa ci vuoi fare, se la distanza è quella. E tu fatti il covo su in mansarda. E sono su adesso. E adesso comincia a esserci freschetto, stasera c'è freschetto. Però dentro in giornata si sta bene, in estate è ottimo, in primavera, autunno. Solo questi giorni di freddo, si sente il freddo. Beh, sicuramente sì, già lo credo, specialmente oggi. Adesso questo che si sente sotto c'è freschetto, certo. Vabbè, avanti. L'unica sono in effetti mettono tutto questo cavo per il segnale, già una frequenza strana è giù questa col gomito di un centimetro e boh, ai fini di questa molto frequenza qua. Io l'ho casa dal qua, sono meno un 20 metri infatti. Invece utilizzata sono un 28 metri, figurati giovanni. Ok, sì. No, io già diciamo che da questo punto di vista sono, mi posso considerare fortunato, perché stando in questa posizione adesso, come stai facendo tu, sa che mi sposti appena, boh, riesco a sentire tutto quanto con QRM, ma è difficile anche far sentire io. Ecco il corso. E ho trovato un gioco, io sono tutta la casa, guarda come qua, centro, devo ti immaginare. Però me ne sto passando, se sta in qualsiasi zona della mano, va bene. In alto però, è corso. Chi? Questo rischia di bruciare la radio. Se vedi il fumo, Giulio, vuol dire che è andato a fuoco. Lasciaglielo bruciare, tanto che già Edo che la brucia, figurati. Sempre mettendo portante, sta. E lui sta sperando di coprirti, capito? E allora non ne può avere soddisfazione tanta stasera. Vai, Marì. Tanto tu bacchi, qua arriva Ala, a me mi arriva Foloscala, Giulio Foloscala, dunque può fare tutto quello che vuole. Anzi, se si ammazza forse è meglio, avanti bacchi. Lascialo fare, non ho capito ancora che si sta perdendo tempo in vano, sta perdendo tempo e basta. E poi rischiare di fare fumo. Ok, avanti giù. Lasciaglielo fare, magari che si accenda anche lui, anzi te lo auguro che si accenda anche lui, si accenda, così almeno che un imbecille di meno nella vita, vero Marì? Grazie, complimento Giù, ma così bello voi, adesso, allora sei gli occhi a voi importante, entra se devi entrare e basta, non se siamo a, non ho capito, allora se divertimento mi sta portante. O entra pure il manascolto, tutto qua è il discorso. Stavo dicendo, vabbè, chi? Ettore, Gio Maria, nessuno oggi, no? Tutti a letto sono. Sono a letto, sei tu, buonasera. Arrivo, me, Mario Goso, allora i zonchi, buonasera Ettore. Sono 5 minuti, catta, 5 minuti che vi sto ascoltando, comunque la portante non vi passava. Lo so che noi siamo più forti, to. Noi siamo più forti, guarda, a mo siamo in tre, tu battisti le cose, qui mi arrivate a fare lo scala, dunque, la portante può fare quello che vuole, si può anche ammazzare, avanti, battisti. Ok, buonasera Tore, ben ascoltato, ben scucciato. Avanti Giulio, a salutare al squalo. Ciao Tore! Il bastone tra le ruote, ma ha capito che... La camera... Vai tu! Ti ha coperto quella portante, che è più che forte! Cascita! Andiamo, vedi che c'è proprio... sotto a zedo qui su! Provo, sei andato brisco! Qualcuno vuole entrare, avanti! Tutto l'atto giù! No, so, avanti, da chi? No, era la portante con la trombetta, ha messo la trombetta che stava trombando adesso. Capito, Marì? E la sua tromba! Non me la c***o lei, la vedo c***a io! Oh, c***o! Invece di mettere la portante, perché non entra, aga? Certo, ma così va a sentire? Che tu vai a sedurarsi così, che hanno buoni la portante, adesso credi che non passano. Passano, passano, guarda quando metti la portante. Ah, da! Vuoi che non ribiazzi? Faccio intendere. Anda bene. Guarda, io lo vedo, ho detto, forse è un tuo... è vicino anche da tua, guarda. Sicuramente è quello che è sotto casa tua, che lo vedo da qui, lo vedo. Sotto a casa non ve nuda. Per un portico sotto a casa. Quindi a me non mi va di nuda. A qualcuno che copre. Vabbè. Andare, da. Guarda, te la sei a fondo. Ma che... Allora, avanti, ma chi? Sì, passa sotto, passa, si sente sotto e boh, non fa nulla. Non fa nulla. Bene, ragazzi, Bacchisio vi saluta e se ne passa ancora di causa questa greca giù. Magari laggiù nel frattempo sto preparando il tutto, vi ascolto. Bene, ciao Giulio. Buonasera, alla prossima. Ciao anche a Tore. Buonasera a Tore, ciao Maria. Siamo, ciao, grazie a te per la chiacchierata. Okay. Sai che non gli rimanga il pulsante in mano qualche giorno? Andate, dai. Ci sentiamo, Bacchi, alla prossima. Ok. Ciao, ciao. Chiedi per la chiacchierata. Ok. Anche Tore sta mettendo la portante, mi hanno per la base a passare, il bello è questo che mi fa passare. Ah, bella, che tu, che te... Io preso... Ma deve essere in zona, Beromme, perché è forte. C'ha il segnale forte forte, c'ha, deve essere in zona però. Stai attento, che così non si regrebbe al baracchino. Sto detto, Tore, qui lo vedo, è sotto tua. No, deve essere qua in zona, deve essere, perché a me non mi copre, che non verrà a vasi. Assolutamente no. Chi è meglio il c***o? Io l'avevo... Vero, tu, la scala è reggio qua con i gabbiani, bene? Sì. Non è possibile. Sì, per buttare a... Ma cosa si gioca con i gabbiani? In che dà viso a centinaia, centinaia? A migliaia di gabbiani. Quando andiamo da qualche anno... al vetro, non vedi... Lo buttiamo a scalare, fattore. Aspetta che... Quando entra faccio una prova, Mari, che c'ho un coso io che se me lo segnala. Aspetta che attacco l'affare. Dai, dai, siamo qua, dai. È un casotto giù, è un casotto. Andiamo avanti, sì. Sì, sì, per il magazzino è fatto praticamente, solo il pavimento devo fare, ma il pavimento lo faccio dopo che ho fatto, perché adesso devo dire il palco e fare eccetera eccetera. Adesso cominciamo con i lavori di falegnameria, dopodiché poi alla fine, siccome c'è il ponte sempre, no? E mi serve per il soppalco pure, che mi viene meglio lavorare, anche se lo posso attaccare con la scala, però col ponte si lavora meglio. E fin quando c'è il ponte non faccio il pavimento, prima faccio tutta la parte alta e poi alla fine il pavimento. È giusto, siamo graffi, secondo me stai utilizzando graffi e sporchi, il pavimento è ultimo. Ma già ti avevo detto se ti serve a ponteggio, ah no, giusto che tu ti hai fatto un trabattello, ti hai fatto, adesso me ne sono anche dimenticato, ti hai fatto un trabattello, comunque non hai bisogno, ma se in caso hai bisogno già, una decina di elementi già ce l'ho io, sono in campagna, vai giù, quanto ti servono? Avanti, Tore, misurato hai? Io, non l'ho già misurato, adesso anche da che zona viene, basta così. Mi gaglio nudo e basta. Si entra, sciocco da Gallugo bene. E appunto. Se non chiamo si gaglia nudo, va. Avanti, va che Così. Pensavo, gente, ha preso il giudizio. C'è sempre. C'è qualcuno di testa, povero Valetto. Riprendi sto. Sì. Comunque, Giulio, a te ti passa, dici, fa venire a tratti da me. Comunque, è vicino, vabbè, un altro momento ve lo dico dov'è. E non dire nulla, già, poi con calma ne parliamo. Naturalmente, Giulio, a coso, a Rosa Verde, naturalmente. E a voglia, caspita, sembra anni. E ha visto cosa vuol fare? Imitare Rosa Verde vuole imitare. Cavolo, la Rosa Verde non era manco nato, vi ricordo, qua sarei tu sì, poi ha. Ah, manco la Rosa Verde, la faccia. E va già tranquillo. Mari. Deve essere che non gli piace da fastidio, deve essere proprio che gli piace da fastidio, questi signori. Ah, manco entra e dica buonasera e coso e così. Si va, si vede. Ah, mi pare sempre che da bassona che dà già fastidio a prudere. Hai capito, Mari? Io capisco, anche a te la sta mettendo, perché sento sul segnale che sta dicendo. Anche sull'intera parentesi, va bene, là. Già parliamo di verticale, già ho capito che stai dicendo, sì. Avanti giù. Ok. Dai, ero... L'unica storia della sua vita è lì. Sì, ma se mi dici a me, Marì, porca... Io... Alla voce... Sì, ma deve avere un apparecchietto bello grosso, deve avere, per fare così deve avere un apparecchietto grosso. E se qui ha quasi puro. Dai, là, anda bene. Vabbè, dai, ragazzi, io chiudo perché mi stanno chiamando. Ok, ci sentiamo, Marino. Ciao, Giulio. Alle prossime. Ok, ho ben sentito, sono tutto in casa. A domani, avanti giù. Ok, ciao a te, bella, che scusi. Vai, Marì. Non preoccuparti, Tom, mangia e dormi tranquillo. La portata ti perseguita avanti, Giulia. Sì, è così, almeno la portata si sarà zacca. Io sono a guerra solo, si sarà zacca. Modo è... Modo è... Sto so io. Poi mangiare un po' caletto, avanti, giù. Ok, può fare, mi lascio. Se qui, no, cosa dire? Che... fammelo fare, così a me perde. Anche con te ce l'ha, Mentre muoio lo sento il rumore della portante, e metti la portante, mettila. Magnatina, danza. Con tutti ce l'ha con Bacchini, con Bacchini, con fare, questo figlio. Non è possibile, che uno possa essere così cocciuto, così imbecille, è incredibile, Maria. Io mi ne so di elementi facci di fumi, possibilmente. La gente fida. Vabbè, diciamo. Se vuoi volevo una cosa, tuo fratello, sono le bombe. Ma sta ancora. È già un paio d'anni, 2 o 3 anni che non sta più lavorando, è pensione. No, non sta più lavorando, già un bel po'. Perché prima lo vedevo, ci fermavamo, prendevamo il caffè ogni tanto. Perché vabbè che io adesso sono anche da storico e prima lo volevo prima. Ma è pensione, è meglio così, va, che sia la pensione. Sono contento, meglio che hai, avanti. Ok, no, guarda, sua mamma ci sta mettendo a posto la casa e lui sta. Ah, la sta sistemando? Va bene, va, meglio così. Meglio così. L'amico Giulio che fine ha fatto giù? Giulio Morito. Ah, Giulio l'ho visto, quando è? La settimana scorsa l'ho visto. Insieme a Roberto, Capelli, no, già lo conosci, il calzolaio, quello che aveva il negozio là. Sì, no, già sta bene, già si sta riprendendo abbastanza bene dal problema che aveva avuto. Meglio così, là. Se va bene, salutiamo, perché sono molto, sta vedendo, sono apparecchi, diciamo. Meglio così, là, avanti. Ok, Mario, sì, no, già si sta. Ci vuole un po' di tempo, che sta bene, è quasi normale, dai, tutti i giorni si fa la passeggiata, perché i medici hanno consigliato di farsi una passeggiata senza sforzare troppo. Però di camminare, passeggiata. Io guardo, ho il bacetto al giorno, 17 km al giorno faccio sul tabacco in 6 ore, figurati. Capita, è un bel pezzo di strada, già lo so, purtroppo è così, ma tu per il lavoro è ovvio, lui invece per la salute e deve fare quelle passeggiate così, almeno per un bel po' di tempo, dai. Perché deve cercare di acquistare un po' di potenza nel motorino che ha aggiustato, che gli hanno aggiustato. Sì, poi partire ci vuole piano piano. Anche la Nico nostra, ha avuto un problema, è passato in via università e che lo vedo ogni mattina, ogni giorno. Non lo stavo riconoscendo, ho avuto quel problema, proprio ho avuto il medico, gli ha di camminare, si faceva una bella camminata, lui abita in via Umberto, soprattutto me l'ho trovato in via Università, piano piano, gli ho detto di camminare, fare belle lunghe passeggiate. Sì, è la stessa cosa gli hanno detto così a Giulio Muritto, la stessa cosa, d'altronde... Bisogna fare, intanto il tempo ce l'ha, problemi, gli ho detto non ti affaticare in campagna, lui si affaticava troppo anche in campagna, andava lì e lavorava come un negro, lavorava in campagna, tutto quello adesso non lo può fare più, almeno per il momento, fin quando non si ristabilisce veramente del tutto, non può più fare sforzi. Lui se non sbaglio c'aveva un pezzo di terreno vicino a me, giusto? A Ottava, o un'altra campagna c'aveva. Sì, via Ottava, praticamente tu immaginati dove c'è voltare per il Prata, proprio di fronte alla E lui è una campagna di giù. Fa parte della strada di dove sei tu, capito? Ah, ok, no, ma aveva detto anche il passato. Storico che farò, là. Come stavo in quella... al campo di via, giusto? Sì, in quella zona lì, sì. Sì, zona lì. Già, un bel pezzo di terreno, Sì, si aveva fatto una piccola casetta per le seminate, si aveva fatto e... Però lui andava tutti i giorni, andava, sai, avendo tempo e non sapendo cosa fare, andava tutti i giorni, magari si metteva anche a zappare, a coltivare, eccetera. Adesso questo non lo sta più facendo, almeno per il momento. E non deve sforzare, sono peggio, Se sforza, peggio. Prende. Meglio lasciare alzare. Con calma, quando si riprende bene, fa quello che deve fare. Bisogna farlo fare agli altri. Ormai, anche lui c'ha l'età sua, non è grande, comunque, per evitare, campare qualche giorno in più. Beh, certo, anche lui ha superato la settantina, mi sembra che ne ha 71, 72, una cosa del genere, è su quell'età. E dunque, anche lui non è più un ragazzino, no. Per cui... Cerca di andare piano, insomma, come tutti del resto, arrivata a quell'età bisogna andarci piano, un po' in tutti, un po' per tutti e in tutte le cose. Esatto, tu sei il più giovane, tu sei il più giovanotto, sei tu, giusto, Lassi? Allora, il più giovanotto sono io, che ne ho 76 fra un po'. E vabbè, comunque, finché uno sta bene di salute già va bene, l'età poi conta e non conta, sì, è sempre meglio avere 20 anni comunque. Lo so che io ne ho quasi 20 in meno, 15 in meno, diciamo. E le cose che facevo prima ormai, tutta dolore, insomma, non sono scelto, sono tutta dolore. Non ce la faccio più molte volte. Prima ero un demonio nella campagna. Era un demonio, passava la motozappa, poi la motozappa. Prendevo l'espertore che ne voglia, ormai o fa una cosa e fai l'altra, ma e se ne piano piano, non è più come una volta, no? Gli anni passano, o lavoro dopo la prima, oppure quando sto facendo a casa, demolendo sotto la roccia con questo cavolo molto piccolo, me ne buttavo le braccia, fino a quando non è terminato io, guarda, tre ne avevo sciolto. Ho sciolto tre motopicchi, ho sciolto, demolendo sotto, c'avevo quasi 2 metri di roccia da tagliare. Piano piano la sera quando uscivo dal lavoro non lo facevo, ma fino a quando proprio mi uscivo tutto bello sudato, bello accoglio. Oggi non ce la faccio, sinceramente, oggi giù non ce la faccio. E sono molto più giovane di te, figurati. Marì, purtroppo è così. Finché si è giovani siamo dei leoni, dopo quando si comincia ad avere una certa età le forze incominciano a mancare, ma io grazie a Dio fino adesso già mi sento ancora in forza. Io guarda, mi sentirei anche di lavorare nel mio mestiere naturalmente, no? Mi sentirei ancora di lavorare, però ovviamente ripeto, a me mi hanno fatto smettere di lavorare qui in famiglia. Basta, dice, ma chi te lo fa fare? Ormai hai una certa età, cosa vuoi fare? Tutta la vita attaccata al banco, no. E così mi hanno convinto alla fine e allora ho smesso. Mi hai fatto bene, giù. Deve anche un po' sbagliare, no? Non ho capito. È una vita lavorando, basta così. A molte riposi, se ne voglia ne fai, se ne voglia non ne fai. Già hai lavorato abbastanza, diciamo, dai. Ma se succede di fare qualcosa, ti fai qualcosa che è la tua e basta. Caspita, già basta quello che hai fatto, dai. Già lo credo, caspita. Io ho lavorato anni, quanti ne hai tu? Ho 62 anni ho lavorato, Marì, sì, che ti puoi immaginare. Abbassa. E ancora oggi, adesso che sto facendo questo lavoretto in questo ufficio, anche quello è un lavoro, no? Per dirti, però lo faccio volentieri perché devo essere sincero, non sento la fatica, però ovviamente io certi sforzi che facevo prima non li faccio più adesso, non li faccio perché non li voglio fare, ci mancherebbe altro, Maria, assolutamente no. Questo cosa si va a fare? Piano piano, quello lì è un lavoro per te personale, dunque, quello che stai facendo è ancora personale, dunque, Basta, basta. Da me domani, no, io come contributo ne avrò un 39 anni, quasi 40 anni dovrei avere. Sono giovane, non mi mando, non ce la fare. Io ho perso 5 anni perché stavo 5 anni, stavo lavorecchiando, se no avrei superato i 40 anni e di volta pure avrei superato. Ma pensiamo alla salute, piano piano si prendendo, se no guai. Beh certo, già lo credo, bisogna fare così. Va bene, dai. Beh Mari, dai, sono le otto e un minuto, adesso andiamo a cenare, dai. Che ho già sentito il primo richiamo dalla parte di giù. Per cui magari sarà anche già apparecchiando mia moglie. Mari, sì, ti ringrazio per la chiacchierata, dai, ci sentiamo domani eventualmente. Alle prossime. Ciao Maria, ascolto Filalino e dopo chiudo, dai. Ciao Maria. E ricordati la mattina se per caso dovessi avere qualche giornata libera, che sono sempre lì. Così vedi il lavoro che ho fatto io e Antonello. Ciao Maria, alle prossime. Ascolto finale e chiudo. Sì, benissimo Giulio, ciao. Buona, grazie, che chiacchierata anche a te, ciao tutti in casa. Ciao Don Antonello, se lo vedi domani. Se in caso capita qualche mattina presto che esco prima, questi giorni è un casotto, che stiamo riprendendo delle zone, lo sai, io dopo il lavoro faccio anche un altro servizio quando capita e stanno per rotondare, sennò guai. Ok, saluto in casa, buona cena e a domani ci sentiamo, dai, ciao Giulio, ciao. Ok, ciao Mari, ciao, a domani, ciao, saluti anche a te da parte mia in casa, ciao. Ciao. Credica.